Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Un altro capitolo dell'imprenditoria scritto da chi ha vinto la scommessa della crescita puntando su prodotti che sono poi diventati oggetto di culto. Cioè un pezzo di uso e arredamento unici. Come ha fatto la Bottega del Restauro, un'azienda parmense specializzata e autorizzata da Berkel S.P.A. nel restauro delle affettatrici Berkel, eseguito appunto artigianalmente da Eric Luca con la stessa passione che gli è stata trasmessa dal padre Ichi. Passione nata dopo una vita di lavoro, durante il pensionamento del padre, che si è regalato una affettatrice Berkel completamente da restaurare e ha realizzato i suoi desideri. E proprio questa passione, trasmessa di padre in figlio, ha fatto nascere in Eric l'idea della piccola azienda artigiana di Varano de Melegari. È successo che nel 1995 mio padre, che faceva tutt'altro mestiere, è andato in pensione. E lì, dopo un paio di mesi così di passioni, a guardarsi un po' in giro, è andato a un mercatino ed ha trovato una vecchia affettatrice. L'ha acquistata perché si è ricordato che da bambino in casa c'era questa affettatrice rossa a volano e di marca Berkel. L'ha portata a casa e poi pian piano, nel tempo che aveva a disposizione, l'ha restaurata. Finito il lavoro, ha fatto vedere al macellaio del nostro paese quello che era diventato il risultato, il macellaio l'ha voluto acquistare. Così dopo, pian piano, mio padre ne ha cercate delle altre, ne ha trovate due, ne ha restaurata una, poi ha trovato un altro cliente che ha acquistato la macchina e pian piano è nata, diciamo, una piccola impresa, dove nell'anno 2000 mi sono affiancato a mio padre, perché anch'io le guardavo prima da lontano, poi sempre più da vicino, e abbiamo deciso di aprire la Bottega del Restauro. Come è stata la strada dall'idea alla realizzazione? Cioè, quando è che avete pensato di diventare veramente impresa, dall'aggiustare una o due macchine a essere veramente degli imprenditori? È successo quando, attorno agli anni 2000, ci siamo resi conto che tutto questo poteva avere un interesse a molti clienti privati che volevano mettersi un bel oggetto in casa, diverso da un quadro, diverso da un bel mobile, ma sempre un bel oggetto da poter comunque anche utilizzare. Da lì abbiamo, negli anni prima, fatto delle ricerche dove si potevano eventualmente trovare tutte queste macchine nella storia vecchie, e avevamo avuto contatti di persone che ora facevano mercatini e quant'altro, perché avevano poi a disposizione un po' di macchine da acquistare. Quali sono state le difficoltà di mettere su un'impresa per voi e quali sono state invece le cose che vi hanno aiutato anche un po' a velocizzare i tempi? Le difficoltà principalmente sono state fin dall'inizio nel cercare di reperire le macchine Berkel vecchie, perché sono oggetti che sono andati in disuso e fuori produzione già da circa 30 anni, quindi era difficile andarle a scovare nelle cantine piuttosto che nei magazzini di macellerie o salumerie, e questa è stata la grande difficoltà, proprio averle. Poi, una volta insomma ingranato un po' tutto il meccanismo, pian piano ci siamo fatti conoscere, soprattutto, e la cosa che mi ci ha avvantaggiato tanto è stata la tecnologia, è stato internet, che ci ha aperto un mondo intero, sia per vendere ma anche per acquistare, perché chi ce l'aveva in casa magari ci ha contattato appunto per vendercela, e chi invece la vuole ci cerca e ci trova per mezzo di internet. Il fatto di lavorare in famiglia e di avere un'idea imprenditoriale in famiglia aiuta a conciliare vita e lavoro per lei? Sì, perché ti permette di non avere orari, diciamo che se devo fare delle cose personali anche durante il giorno non ho problemi a farle, ma dopo devi anche magari lavorare più di una volta, anche fino alla sera tardi, per finirti una decorazione piuttosto che un montaggio di una macchina, perché entra in gioco molto anche la passione e quando vedi che sei al 90% non vedi l'ora di vedere il restauro finito per vedere la macchina girare. Quanto tempo ci vuole per aggiustare una di queste macchine? Quando le troviamo sono dei blocchi di ruggine, degli ammassi di ferro che le persone inesperte quasi quasi le butterebbero. Molto semplicemente, pian piano, vengono tutte completamente smontate, tutta quella che è la parte di verniciatura, prima la sabbiamo e poi viene ristuccata, riverniciata, decorata e poi diamo una verniciatura trasparente per fissare le decorazioni, i marchi e quant'altro per farla rimanere lucida e brillante per molto tempo. Mentre tutte le parti cromate vengono messe dentro un acido per togliere il vecchio cromo, poi ripulite e poi viene immerso ancora nel cromo nuovo per dargli la lucentezza che avevano in origine. Tempo per aggiustarle? Siamo attorno ai 2 mesi, ne facciamo sempre 2-3 per volta, normalmente sono circa 150 ore per macchina. Che domanda c'è e a che livello di prezzo vengono vendute? È una clientela di buona fascia, perché appunto i prezzi partono dai 6.000 euro e vanno fino a 15-20.000 per i modelli più vecchi e rari. Voi pensate che la vostra attività possa avere uno sviluppo dopo questa dimensione artigianale imprenditoriale? Ci può essere, perché si può pensare anche di iniziare a restaurare altre cose, tipo moto, biciclette, macchine e quant'altro. L'attività di restauro è molto simile per tutte le cose fatte di metallo. Lo sviluppo eventualmente un domani, dopo tanta esperienza fatta con delle cose vecchie, sarebbe bello iniziare a produrre e ricostruire affettatrici a volano come quelle in passato, tenendo conto delle necessità di oggi, cioè delle normative, della pulizia, dell'igiene, dei materiali che devono essere totalmente diversi da quelli di una volta. Avete un qualche patentino di originalità di autenticazione per la vostra attività? Noi siamo stati riconosciuti dalla Berk, che oggi è un'azienda italiana, come restauratori autorizzati, siamo in grado di fornire una certificazione ufficiale per il restauro. Si sente un eroe? Ma un eroe è una parola grande, perché un eroe è una persona che magari riesce a dare del lavoro a migliaia di persone. Diciamo che nel mio piccolo faccio lavorare qualche piccolo artigiano, il mio lavoro mi appaga molto e sia io che mio padre ci sentiamo molto realizzati di quello che siamo riusciti a fare in questi anni, che da niente abbiamo costruito una piccola impresa che siamo poi conosciuti in tutto il mondo, perché abbiamo clienti in Australia, negli Stati Uniti, in Belgio, in Olanda, in Francia, in tutta Europa. Per un emiliano occuparsi di una macchina che viene dall'Olanda com'è? È bello, perché comunque tutti l'abbiamo sempre pensata come la macchina che taglia il prosciutto di Parma, e quindi va bene così, perché in Belgio e in Olanda sono nate da un macellaio. Poi noi italiani le abbiamo reinventate come affettasalumi, che sono state sicuramente le macchine che hanno fatto la storia per l'affettato. C'è ancora molto spazio per crescere anche per una vetreria storica di Murano, famosa isola della Laguna Veneta a nord-est di Venezia. Vetreria che si chiama Vistosi, le cui origini possono essere fatte risalire a 500 anni fa. L'attuale proprietario, Matteo Moretti, ha rilevato il marchio nel 1989, praticamente da un fallimento, e l'ha fatta tornare agli antichi splendori. Oggi è sicuramente tra i più importanti del settore del mondo, con collaborazioni con importanti designer. È nato nel tempo, negli anni degli studi. Io mi sono sempre interessato a economia e ero affascinato dal mito degli anni 80 dell'economia del nord-est crescente, che riusciva nel piccolo a eccellere a larga scala nazionale e anche internazionale con piccole risorse. E noi in famiglia, mio padre ha cominciato un'attività a fine degli anni 70 senza una lira e un po' alla volta vedevo in famiglia crescere questa attività aziendale e mi affascinava lo sforzo che ci metteva e la passione. Questa passione portava anche dei frutti che di volta in volta mio padre reinvestiva nell'attività e io ogni volta mi chiedevo ma quando è che qualcuno di questi frutti lo cogliamo? È nata invece una cosa più concreta, un'impresa concreta? Sì, è nata un'impresa che basa tutto il suo essere sul concetto di produrre un prodotto, il vetro di Murano, che di per sé è una, diciamo, una garanzia perché non è pubblicabile all'estero, né nessun'altra realtà al mondo è riuscita ad avere una produzione simile, nei secoli e secoli di esperienza, di tradizione, dalle maestranze fino ai piccoli segreti che si sono tramandati nei secoli. E questo è quello che mi affascinava, quello che mi diceva sì, qua si può investire, si può esportare questo all'estero, perché in quale altro settore economico si può dire sono tranquillo che non troverò un'altra azienda nel mondo che può farmi una concorrenza diretta? Sì, certo, anche noi abbiamo fatto vari brevetti e modelli che ci proteggono, però una protezione forte come la protezione di essere l'unico a fare quel prodotto o tra i pochi, e quei pochi sono tutti quanti di vicino. Ecco, oltre questo grande vantaggio che deriva dal fatto di avere una lavorazione esclusiva, sì, quali sono state le cose, gli elementi, le persone, il network che ha dato una spinta al proprio, suo lavoro? Proprio le persone sono quelle che ci hanno permesso di fare tutto questo, perché alla fine il bravo imprenditore ha bisogno di persone, che un team di persone sui quali basare la propria azienda. Ovviamente la capacità dell'imprenditore di valorizzare al massimo. Com'è stato confrontarsi con una storia così lunga della vetreria Vistosi e poi com'è stato risollevarla, diciamo, dal basso? È stato molto duro perché ovviamente grandi marchi poi generano grandi aspettative nei confronti della clientela, ma anche di distributore, l'importatore, il negoziante che era abituato a certi standard. Come ha fatto lei a incontrare questa azienda, questa occasione? Le occasioni a Murano, un'isola molto piccola, capitano abbastanza facilmente. Diciamo che il collegamento diretto è legato al fatto che mio padre, come produttore di vetro prima, già produceva per il marchio Vistosi. Alcuni dei pezzi, alcune delle opere venivano realizzate nelle nostre vetrerie precedentemente, perché già noi eravamo proprietari del marchio Punto Luce. Quali sono stati i momenti peggiori? La crisi dell'anno scorso è certamente stato un momento difficile, che poi è arrivato nel periodo di massima espansione dell'azienda, per cui ha raffreddato certamente gli animi, ma anche negli anni precedenti c'erano state difficoltà molteplici, dal passaggio all'internazionalizzazione. Io sono entrato in azienda che l'azienda faceva il 95% del fatturato in Italia, oggi facciamo oltre il 60% all'estero. Vantaggio competitivo sono anche questi designer, chi sono? Degli storici, Enrico Magistretti, Angelo Mangiarotti, dall'architetto Morfeo al Belight del 2003, Michele De Lucchi, Ettore Sozzas, Gaio Lenti. Lei si sente un eroe per quanto ha fatto fino adesso? Io mi sento un eroe per altre cose, perché nel frattempo a 36 anni, oltre che aver contribuito a portare l'azienda a questi successi, ho avuto anche 4 figli, per cui diciamo, se sommiamo le due cose, forse un po' sì. Quindi un gruppo di eroi siete? Ecco, forse sì, questo probabilmente si può dire così. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet su www.radio24.it e appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.